Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera e domani sera faremo il punto sullo sviluppo di una filiera, la filiera del GNL, che rappresenta oggi con tutta probabilità la soluzione più concreta a nostra disposizione per uno scatto in avanti sul piano della sostenibilità ambientale, se parliamo di trasporto pesante su strada o anche marittimo, almeno finché tecnologie basate sulla propulsione elettrica, in particolare sull'idrogeno, non diventeranno competitive. GNL sta per gas naturale liquefatto, ovvero lo stesso gas che esce dai fornelli di gran parte delle case degli italiani, ma raffreddato a 160 gradi sotto zero per mantenerlo liquido, cosa che ne rende enormemente più facile il trasporto. In questa forma occupa 600 volte meno volume che in forma gassosa, può essere trasportato a pressione atmosferica, quindi senza bisogno di bombole. Serve invece un serbatoio speciale criogenico, molto ben isolato, ma soprattutto, ed è uno dei temi di cui discuteremo in queste due serate, serve un'infrastruttura di distribuzione adeguata. Buonasera e benvenuto a Francesco Franchi, presidente di Assogas Liquidi, che, come dice il nome, è l'associazione di Confindustria che raccoglie gli operatori di settore. Eccoci, Franchi. Buonasera, dottor Melis, a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta, abbiamo alle spalle una stagione segnata da ripetuti allarmi sullo stato dell'aria. Allora, partiamo da questo aspetto, quello ambientale. Lo so che questo è veramente un invito a nozze, ma insomma, prendiamo un camion alimentato a gas naturale e uno alimentato a gasolio. Cosa cambia in termini di emissioni? Sì, i benefici ambientali nell'utilizzo del GNL, se paragonato ai tradizionali prodotti petroliferi, in termini di emissione sono veramente importanti. La CO2 va da un meno 15 a un meno 25%. Sì. Gli inquinanti locali, per cui c'è la quasi eliminazione totale di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, e riduce drasticamente, quasi portandola a zero, cioè un meno 90%, sì, 95%, il particolato, che sono le polveri sottili, PM2.5, PM10. Ecco, ovviamente questi numeri dati da Assogas Liquidi possono sembrare sospetti, ma se uno va a vedere in letteratura è proprio così, questi sono i valori. Sono numeri scientifici. Sì, diciamo, infatti. Di settore. Ecco, senta, allora, vediamo che cosa comporta dotarsi di questo GNL, gas naturale liquido. Perché non il solito gas metano che si trova ai distributori? Perché ne serve tanto a bordo di un camion e quindi trasportarlo con delle bombole sarebbe un po' impegnativo. Cosa vuol dire avere del gas naturale liquido a bordo? Allora, il gas naturale liquido a bordo, diciamo, siccome è criogenico, occupa assolutamente meno spazio rispetto al gas naturale, praticamente è 600 volte più denso del metano in forma gassosa e è 9 volte più denso del metano compresso, del CNG, che è un altro diciamo carburante gassoso, identico in pratica, o quasi, esatto, insomma. Però sul trasporto gassoso pesante, dove spesso c'è bisogno anche di grandi percorrenze, è tutto evidente che il GNL è la risposta naturale, perché con un pieno di GNL, diciamo che i 185 kg, per capirsi, che il carico normale di un camion corrisponde a 560 litri di gasolio come percorrenza, per cui insomma, diciamo, è un carburante con una grande densità, diciamo così, di energia. Ecco, senta, come dire, si può adattare l'uso del GNL ad un camion esistente che va a gasolio? Sì, sono già in Europa sono già operative, in Italia sono solo ancora a livello sperimentale, però è assolutamente possibile trasformare, diciamo, un Euro 6, Euro 5 con più difficoltà, mezzi più vecchi, datati, e farlo diventare un bifuel, cioè praticamente un mezzo che può viaggiare sia col combustibile tradizionale che col GNL. Tra l'altro, diciamo che i principali operatori industriali di queste trasformazioni sono pure italiani, ecco, anche se qui in Italia stiamo ancora sperimentando, ma questo è un mistero, ma vabbè. I costi di queste conversioni sono affrontabili? Di che cosa stiamo parlando per un autotrasportatore? No, i costi sono assolutamente affrontabili, chiaramente sono costi importanti, ma bisogna anche poi tener conto che il GNL rispetto al gasolio ha un minor costo di gestione, cioè costa meno come prodotto. Ecco, per cui circa il 40% di meno, vantaggio quasi solo fiscale, direi sostanzialmente fiscale, ma per ora le cose stanno così. Sì, esattamente. L'investimento su una percorrenza media, diciamo, del trasporto pesante, che sono svariate decine di migliaia di chilometri percorsi all'anno, questo investimento verrebbe recuperato in poco più di 2 anni. Poco più di 2 anni, d'accordo. Ci sono anche dei finanziamenti statali, no? Un aiuto, allora, diciamo. I finanziamenti statali sono sui mezzi nuovi, in soldoni, per chi acquista un nuovo automezzo pesante, un automezzo industriale pesante alimentato a GNL, c'è un contributo a fondo perduto di 13.000 euro, per cui un contributo importante. Va bene, allora Franchi, ci fermiamo qui per il momento, ci risentiamo domani per parlare dell'altro problema, quello della infrastruttura. Grazie per intanto. Assolutamente a sua disposizione. Grazie a lei, dottore, un saluto agli ascoltatori di Radio 24. Ci fermiamo qui, a domani.